Evangelo, insostituibile messaggio divino per tutti gli uomini di ogni tempo. Leggeremo, in relazione al titolo che abbiamo dato alla nostra riunione, due testi classici che si riferiscono all'Evangelo. Il primo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo dedicata ai credenti di Corinto, capitolo 15, versi 1, 2, 3 e 4, e poi leggeremo nel primo capitolo della lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, verso 16 e 17. Cap. 15 di Cor. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché io avevo prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture, secondo l'attestato delle Scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture. Poi nella lettera di Paolo ai Romani, capitolo 1, versi 16 e 17, io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio, dunamis potenza, la parola che serve per radice alla nostra parola dinamite, per la salvezza di ogni credente, dal giudeo prima, cioè dell'uomo che ha la religione, e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede. Questi testi sono i testi fondamentali che ci danno in sintesi il messaggio del Vangelo. Il messaggio del Vangelo che ha al suo centro la rivelazione della persona del Signore Gesù Cristo, la divinità di Gesù, Cristo Figlio di Dio, la concezione miracolosa nel seno della Vergine, la sua nascita alla somiglianza di uomini incomparabili, divine, la morte espiatoria, sostitutoria, sofferta dal Signore Gesù Cristo a cagione peccati degli uomini, la risurrezione che fa dei credenti in Lui dei giusti davanti a Dio, la sua ascensione per sedere alla destra del Padre nella maestà dei cieli, la discesa dello Spirito Santo per la formazione della Chiesa, la stesura del libro sacro che noi abbiamo grazie al Signore nelle mani, dove Dio si rivela pienamente alle creature umane, l'assistenza del Signore ai credenti che sono per la fede salvati, santificati e in attesa di essere glorificati, ed infine la rivelazione dell'opera dello Spirito Santo nel mondo e quello che concerne i particolari che si riferiscono al popolo ebreo. L'Evangelo, questo è l'Evangelo, insostituibile messaggio di Dio per tutti gli uomini di ogni tempo. Quando il nostro Salvatore Signore Gesù Cristo fu sopra la terra, portò continuamente i suoi uditori a considerare il valore della rivelazione di Dio, della parola di Dio. Trovandosi una volta in una casa che costituiva un luogo di particolare conforto per il suo cuore, che può dirsi veramente il cuore di un incompreso per eccellenza, la casa di Lazzaro, di Maria e di Marta, trovandosi in questa casa e avendo una delle sorelle di Lazzaro preso una posizione di ascolto ai suoi piedi, mentre Marta si affaccendava utilmente per i vari servizi che erano necessari nella casa, il Signore Gesù disse ad una parola rivolta da Marta, disse parlando di Maria, di una sola cosa fa bisogno o di poche cose fa bisogno, e Maria ha scelto la buona parte, tutto quello che tu fai Marta ha pieno valore. E il Signore lo considera, ma si riferisce alla vita transitoria, alla nostra vita sopra la terra, ma l'ascoltare la parola di Dio e far sì che lo Spirito non sia impregnato e la vita trasformata vuol dire accettare la buona parte che non sarà mai tolta e il cui valore si protende nell'eternità. A delle persone che vennero a lui attorniato da grande folla e gli dissero che Maria sua madre e i suoi fratelli, cioè i componenti della sua famiglia terrena, desideravano parlargli ed erano fuori ad attenderlo, egli domandò in una delle sue sconcertanti, sconvolgenti domande: chi è mia madre? E avviluppando in uno sguardo di amore coloro che in quel momento lo circondavano, la cerchia intima dei suoi che lo ascoltavano, disse: ecco, ecco chi sono mia madre e i miei fratelli. Mia madre e i miei fratelli sono coloro che amano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ad un gruppo di persone che, come accade nella grande religione di oggi, avevano delle idee razionaliste, una specie di gnosticismo in ritardo, i Sadducei, e mentre rimanevano nelle file della religione, negavano ciò che costituisce il valore della religione, cioè la trascendenza, tutto quello che si riferisce allo spirito, alle realtà spirituali di cui la religione vuole essere portatrice. Il Signore Gesù disse: voi errate perché ignorate le Scritture e ignorate potenza di Dio. E sempre la parola che veniva riportata dal Signore. Ed egli, si può dire, riassunse in alcuni versetti tutto quello che costituiva la ragione della sua venuta e l'effetto che questa sua venuta avrebbe prodotto nelle anime che venivano in contatto con lui. Chi ode la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. La volontà del Padre mio è che chiunque contempla il figliolo, cioè non solo riguarda lui e poi si volge per fermare lo sguardo altrove, ma guarda e torna a guardare in uno stato di estasi, di ammirazione, in uno stato di attrazione che un'altra persona può esercitare all'anima, allo spirito, chiunque contempla il figliolo e crede in lui ha vita eterna. La persona e l'opera del Signore Gesù Cristo rivelati nella parola che noi abbiamo nella nostra mano e grazie a Dio molti di noi hanno nel proprio cuore. E l'Apostolo poteva dire: io non mi vergogno dell'Evangelo. Non è l'Evangelo la potenza di Dio che salva dalla morte eterna tutti coloro che l'accettano per la fede? Questo è quello che l'Evangelo ci rivela, che Dio dichiara giusti per una dichiarazione forente, per una dichiarazione legale, tutti coloro che hanno posto la loro piena confidenza nella persona divina, sacrificata e risorta del Signore Gesù Cristo, del Figliolo di Dio. La fede nasce dall'udire la predicazione dell'Evangelo. La fede viene dall'udire predicare l'Evangelo, e l'Evangelo è costituito dalla parola di Cristo, da ciò che concerne la persona del Signore Gesù. La benedizione di poter predicare il Vangelo, la benedizione di poter ascoltare il Vangelo, la benedizione di poter accettare il valore del suo divino messaggio. Quando ho letto la storia della morte di Gesù, diceva un uomo dell'Africa, ho maledetto i giudei e Pilato, ma quando l'ho compresa mi sono maledetto perché anch'io ho crocifisso Gesù Cristo. Questa è la via che conduce alla salvezza. Vedersi alla luce di questa rivelazione come coloro verso i quali l'Evangelo rivolge il suo messaggio. Veramente il taglio della sua spada acuta capace di penetrare fin nell'intimo dell'uomo e far sì che l'uomo si senta a posto alla luce di Dio e si ravveda e accetti il dono che il Signore nella sua grazia gli fa. Fratelli, sorelle, amici, noi abbiamo bisogno di comprendere che attraverso il messaggio dell'Evangelo Gesù è venuto sopra la terra per occuparsi della questione della redenzione dell'uomo. Forse questo sfugge a gran parte di persone. Il Signore Gesù Cristo non è venuto sulla terra per aumentare la nostra intelligenza nel senso tecnico della parola, oppure la nostra capacità di operare e di creare. Tutto questo noi l'abbiamo avuto dal Creatore quando ci ha fatto le creature che noi siamo, le creature eccellenti che noi siamo. Ma il legame che all'origine teneva la creatura umana unita al suo Creatore si è rotto e l'uomo è divenuto una creatura separata da Dio, ha mantenuto la sua intelligenza tecnica, la sua capacità di sentire, di amare, di comprendere, ma è stato degradato da questa separazione da Dio e nel circolo della sua vita tutte quelle che sono le sue attività hanno portato e portano questo marchio di degradazione, la separazione da Dio. L'uomo ha perso l'unione con Dio, ha perso l'attrazione verso le cose di Dio, ha perso la presenza di Dio nella propria vita. Che cosa è venuto a fare il Signore Gesù Cristo? È venuto a riunire l'uomo a Dio. L'Apostolo Pietro centra in un versetto di straordinaria bellezza questa realtà come tutta la parola di Dio fa. L'Apostolo Pietro dice: il giusto è morto per gli ingiusti per ricondurci a Dio. Rimettiamo a posto questo legame spezzato fra la creatura e Dio, e tutte le altre cose andranno a posto: l'intelligenza, i sentimenti, la capacità creativa, la potenza di amare, tutto quello che l'uomo come creatura eccellente di Dio possiede. Rimettiamo a posto questa relazione dell'uomo con Dio e allora noi realizzeremo veramente come tutte le altre cose andranno a posto. Per dire un'espressione del sermone sul monte, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Questo è il messaggio dell'Evangelo: richiamare la creatura alla comunicazione con Dio, alla comunione con Dio. Come predicatori dell'Evangelo, avendo cercato davanti al Signore con timore e tremore di sapere quello che Egli avrebbe voluto che noi dicessimo, ed io sono certo di aver potuto captare poco di questa sua voce, quantunque io abbia cercato di vedere la faccia del Signore in questo tempo che mi ha separato dall'invito fattomi dai credenti, noi dobbiamo denunciare che vi sono delle trappole infami per gli uomini di tutti i tempi e di oggi, delle trappole che impediscono all'uomo di vedere la sua situazione e di rendersi conto della necessità disperata e impellente che egli ha di riunirsi a Dio secondo la rivelazione che il Vangelo ha in riferimento a questa riunione. vi è la religione formalista incapace di svegliare la coscienza e di comunicare la vita. Vi è il farisaismo che in tutti i tempi è esistito, non solo al tempo in cui il Figlio di Dio era sopra la terra, ma ancora oggi. Che cos'è è il farisaismo? È una forma di esteriorità religiosa priva della vera sostanza. Vi è il sadduceismo, cioè un'interpretazione razionale dei principi della religione, come cercavo di dire prima, che non tiene in nessun conto quella che è la sua trascendenza. I sadducei che rimanevano nella religione formavano una corrente che non credeva alla risurrezione, che non credeva allo spirito, che non credeva agli angeli. Questo sadduceismo è ancora oggi una trappola mortale per le anime. Vi è il materialismo beffardo che esalta l'uomo e pretende di annullare Dio. Vi è la critica della Bibbia, che viene trattata come un libro qualunque e sottoposto ad un sezionamento come si potrebbe fare per un libro scritto da mano d'uomo. Vi è la ricchezza egoista e insensibile al grido del povero, una ricchezza egoista che ingrassa il cuore ed impedisce di sentire la parola di Dio. Vi è la povertà invidiosa e sempre in rivolta. Vi è la scienza con un suo progresso, che induce a disdegnare Dio. Vi è l'ignoranza fanatica, che non comprende la verità divina e si corrompe nella vana superstizione. Vi è l'avarizia che fa del denaro un Dio. Vi è la dissipazione scandalosa che fa della società dei consumi, la società degli sprechi. Vi sono le basse e vergognose forme del piacere, del benessere che addormenta la sensibilità morale, della degradazione dei valori morali e spirituali. Vi è la corruzione che si trova a tutti gli strati della vita nella società. E per dirla con le parole del libro dei Proverbi, tutte queste sono vie che conducono alla morte, e nelle quali vi è la potenza della morte, cioè della separazione da Dio. Leggevo giorni fa in una bellissima opera del nostro caro fratello Alfredo Kuhn, un fratello che il Signore ha particolarmente dotato e che ultimamente ha redatto una traduzione in un linguaggio moderno, tenendo conto di tutti i valori della lingua originale della rivelazione di Dio, le lettere dell'Apostolo Paolo, che questa nostra epoca è particolarmente vicina a quella che vide nascere il cristianesimo. Gli dei del nostro tempo somigliano a quelli antichi. Abbiamo Minerva, la dea della ragione dell'intelligenza. Abbiamo Venere, intesa nel senso della bellezza dell'ordine sociale. Abbiamo Eros, l'erotismo, la sessualità distorta, morbosa, lussuriosa. Abbiamo Marte, la tremenda forza delle armi. Abbiamo Mercurio, la potenza e la forza del commercio. Tali divinità occupano ben più posto nella nostra civilizzazione che il Dio di Gesù Cristo e della Bibbia. Ed ecco che a questo mondo pagano, violento, degradato, moralmente dissoluto, a questo mondo che cerca di mantenere ancora qualche cosa della religione per avere una remota forma di pace, nella sua coscienza inquieta, ecco che a questo mondo vengono gli uomini per portare la loro panacea, per portare il loro rimedio, che è veramente, come si dice in Toscana, un panno caldo sopra in cancro. Economisti, filosofi, politici, scienziati propongono i loro rimedi che sono rimedi senza efficacia. Si riformano le istituzioni, si modificano le strutture, si migliorano le condizioni di vita grazie a Dio per tutto questo, ma non si comprende che è l'uomo che deve essere cambiato. È questo il messaggio del Vangelo. E Gesù Cristo disse un giorno fra le verità eterne che egli pronunziò quando fu sulla terra. E dal cuor dell'uomo che procedono pensieri malvagi, adulteri, furti, omicidi, fornicazioni, false testimonianze, diffamazioni, queste cose che vengono fuori dal cuore dell'uomo sono quelle che lo contaminano. La scienza celebra i suoi trionfi, ma l'uomo non cambia ed è simile, moralmente parlando, ai suoi antenati dell'antichità o del Medioevo. Gli è più facile mettere un piede sulla luna che disfarsi dei suoi vizi, delle sue passioni e dei suoi egoismi. Che cosa daremo all'uomo, che cosa diremo noi all'uomo, noi cristiani evangelici che portiamo questo straordinario e sacrosanto nome? Cristiani che fondano la loro fede nell'Evangelo. Daremo la parola di Dio, io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è la potenza di Dio, la dinamite di Dio davanti a tutte queste forze che sono nel mondo, queste forze che inebriano l'uomo e lo attraggono, queste forze che gli fanno dimenticare che vi sono vere realtà spirituali che egli ignora e alle quali ha voltato deliberatamente le spalle. Davanti a tutte queste forze, queste potenze, noi dobbiamo portare la potenza di Dio. Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Non è un pensiero da donne, questo non è un pensiero da vecchie, non è un pensiero da uomini che rinunciano alla vita. Questo l'Evangelo, fratelli, sorelle ed amici, è la salvezza dell'uomo nella sua interezza. L'Evangelo non si riferisce soltanto a giustificare l'uomo legalmente davanti a Dio, sì che l'uomo che crede nel Gesù Cristo rivelato dalle Scritture è dichiarato giusto da Dio, ma la rivelazione dell'Evangelo, la salvezza che porta l'Evangelo, investe tutta la creatura umana, la Trinità dell'uomo. L'uomo è visto come corpo, anima e spirito, e dopo che l'Evangelo ha portato all'uomo la giustificazione, dà all'uomo la potenza e la santificazione. Che cos'è la santificazione? È la giustificazione in atto, è la vita di Dio ogni giorno nella vita della creatura umana. E l'Evangelo non si ferma ancora, dà all'uomo la glorificazione, cioè la speranza di un'eternità con Dio, nella quale tutti quelli che sono i problemi che invano noi uomini abbiamo cercato di risolvere sopra questa terra saranno risolti secondo la giustizia, l'amore, la saggezza che vengono dalla parte del Signore. Dunque non dobbiamo pensare al Vangelo come qualche cosa di cui possibilmente dovremo aver bisogno quando saremo in punto di morte, dato che sapessimo quando viene il momento della nostra morte. Dobbiamo pensare all'Evangelo come il messaggio di Dio per la salvezza intera dell'uomo, della creatura umana, in tutte quelle che sono le sue attività, in tutta quella che è la sua composizione. Perciò l'Apostolo Paolo dirà: «Io non mi vergogno dell'Evangelo che è la potenza di Dio per la salvezza dell'uomo tutto, di tutta la storia, di tutto il nostro futuro per l'eternità». Il vero cristianesimo, fratelli, sorelle ed amici, non è platonico, non si occupa soltanto della parte spirituale dell'uomo, ignorando il corpo, ma grazie a Dio la rivelazione dell'Evangelo non è materialista, che si occupa solo del corpo e non pensa a nulla dello spirito. Sì che, come dirà F.B., l'uomo è quello che mangia, e il vero cristianesimo non è religione di forma, ma è la relazione dell'uomo con Dio per la potenza dello spirito suo che illumina le pagine sacre, sì che l'uomo viene ad essere posto nuovamente in comunicazione con quel Signore che egli ha rigettato per natura operazione. Noi crediamo come cristiani evangelici che l'uomo ha bisogno della parola di Dio, e noi crediamo che questa parola di Dio è adatta per tutti gli uomini, che l'Evangelo è un messaggio universale, anche se vi sono delle differenze profonde tra uomo e uomo, differenze che imprime il clima, il temperamento, la razza, il paese, l'educazione, la situazione sociale, la morale, la cultura, la religione. Ma l'Evangelo è buono per ogni creatura umana. È buono per tutti gli uomini della terra, perché gli uomini della terra sono creature eccellenti di Dio. Ed ha ragione l'Evangelo di essere stato chiamato il pane dell'anima e l'acqua della vita, perché come il pane è capace di soddisfare la fame in ogni uomo sopra la terra di un esquimese o di un africano, e l'acqua è capace di soddisfare la sete di ogni uomo, così la parola di Dio è potente per soddisfare i bisogni dell'anima della creatura umana, chiunque questa creatura sia. Lasciatemi dire, miei cari, con amarezza ma con senso profondo di responsabilità, è stato un crimine da parte delle grandi forme religiose, dei grandi sistemi che portano ancora ingiustamente il nome di cristiani, d'avere chiuso questo libro ai così chiamati laici, dividendo la società umana in una parte di clero che ha preteso di amministrare ed invece ha manipolato la parola di Dio, sì che ad un certo momento gli uomini si sono trovati vuoti di questo pane della vita. E una cosa grave, miei cari, quando la forma religiosa, invece di essere una mano che porge il pane della vita alle anime, diventa una mano che è vuota ed è piena di anelli che i fedeli sono chiamati a baciare. Ed è stato un crimine ancora che i grandi sistemi religiosi protestanti abbiano indagato sulla parola di Dio e l'abbiano trattata come un libro qualunque, sottoponendola a quella che è chiamata la critica biblica. Noi crediamo che la vera Chiesa evangelica è quella che considera la Bibbia la parola di Dio rivelata in proposizioni scritte, cioè noi abbiamo una rivelazione verbale di Dio e la considera come l'unica autorità e norma per la vita e per la condotta. Diceva un predicatore svizzero dello scorso secolo: «Mi si portino pure i piatti di una bilancia e su di uno di questi piatti mi si mettano tutte le critiche che gli uomini anche giustamente possono avere rivolto al cristianesimo e dai cristiani, all'Evangelo, dagli evangelici. sull'altro piatto della bilancia io porrò tutte le benedizioni, tutte le grazie, tutti i progressi, tutte le liberazioni, tutte le libertà che sono sorte da queste pagine divine benedicendo l'uomo. E poi aspetterà tranquillamente l'esito della prova perché saprò bene da quale lato si chinerà il piatto. E noi dobbiamo essere quelli che crediamo a questa prova davanti a un mondo che continuamente ci presenta tutte le sue divinità e tutti i suoi valori che non sono valori davanti a Dio. Noi dobbiamo essere ancora coloro che vogliono vedere questa prova e sono capaci di dimostrare che il Signore è colui che è la verità e l'Evangelo e ciò di cui l'uomo ha bisogno. Sapete cosa è stato detto degli ebrei? Gli ebrei che hanno avuto le scritture sacre non hanno accettato Gesù, ma un giorno lo riconosceranno. È stato detto di loro che hanno portato una fiaccola che non li ha illuminati. Si può portare una fiaccola che non ci rischiara. Questa nazione ha portato una fiaccola che non l'ha rischiarata, ma questo si può dire dei sistemi religiosi. Questo si può dire della grande chiesa che è attorno a noi che ha portato questo Evangelo avanti, ma non senile, è lasciata rischiarare. Si può dire della grande cristianità che da Costantino ad Odosio nel IV secolo ha dominato l'Europa e si è prolungata sino ai tempi attuali. Che cosa ha composto questa cristianità? Ha composto un'unione della Chiesa con lo Stato e ha portato a questo concetto di eresia, a questo concetto blasfemo, che tutti coloro che fanno parte di una nazione cristianizzata sono chiamati cristiani. E non sono passati attraverso il travaglio del ravvedimento, attraverso il travaglio della nuova nascita, perché non hanno sentito l'Evangelo e non è stato loro mostrato che l'uomo è peccatore ed ha bisogno della salvezza che solo il Signore può dare. Ci è bisogno di predicare l'Evangelo. Chi salverà l'uomo? Chi salverà l'uomo di oggi? Chi salverà i nostri amici? Chi salverà i nostri giovani? Chi salverà i nostri figli? La parola di Dio. Chi ci terrà in una relazione con il Signore e di luce con Lui? La parola del Signore. L'immortale messaggio dell'Evangelo. Nel XVI secolo un monaco tedesco, anima diritta e pia, agitata da aspirazioni profonde, dopo aver vanamente cercato la pace nelle macerazioni e nelle penitenze del convento, volle recarsi nella città santa a Roma per adorarvi Dio e vedere da vicino quello che si chiamava il suo rappresentante sopra la terra. Questo monaco era Martin Lutero, quando, ad un certo momento nel suo viaggio, si hanno tracce del suo passaggio da Firenze, sembra che abbia dormito in un ospedale chiamata di Santa Maria Buona. Quando arrivò presso di Roma fu tale e tanta l'emozione che strinse il suo cuore nel vedere da lontano la grande città che si inginocchiò in terra, e disse: «Io ti saluto, città degli apostoli e dei martiri». Giorno dopo giorno egli percorse tutta intera la città. Si arrestò in ogni luogo di pellegrinaggio, credette umilmente a tutte le leggende pie che le guide gli narrarono. Ahimè! Ciò che trovò ben presto furono lo stupore e la costernazione. Si era in quel tempo sotto il Papa Giulio II, il pontefice guerriero che vantava di avere la migliore artiglieria d'Europa e amava presentarsi vestito da guerriero. Si era nel tempo in cui Machiavelli diceva che l'ateismo andava crescendo a misura che ci si avvicinava a Roma. Dappertutto regnava lo scandalo delle cose sacre. E Lutero tornò indietro spaventato e ad un certo punto disse: «Roma è edificata sull'inferno». Ma che cosa è che lo salvò? Chi lo salvò? Quando egli vide crollare tutto l'edificio che era stato costruito sopra ad un fondamento che si mostrava adesso frale, un fondamento che non poteva in alcuna maniera resistere ad una prova, chi lo salvò? Lo salvarono le sacre scritture che trovò nel convento di Wittenberg, quella fiaccola che non l'aveva abbastanza illuminato ma che ora per la potenza dello Spirito Santo lo illuminava. Ami e cari, chi potrà salvare l'uomo? Chi salverà l'uomo? Tutto se si guarda proprio nel suo carattere fiero, mostra la corda, mostra tutte quelle che sono le negazioni, tutte quelle che sono le contraddizioni, tutto quello che è il vuoto di ciò che noi uomini stiamo riguardando e venerando. Nella grande dottrina della salvezza per fede, della salvezza per grazia e per fede che il sacerdozio romano gli aveva nascosto, venne al cuore e allo spirito di Martinka Lutero, e possiamo dire che seppure la riforma non ha portato avanti tutto il lavoro della rivelazione, non ha riportato la Chiesa al principio apostolico, oppure ci sono ancora dei bagliori della Riforma che illuminano le anime. Questo salva l'uomo deluso. Quante alibi del nostro tempo sono del pari disilluse? Come vorrei dirlo a tanti giovani, a tante ragazze? Come vorrei saperlo dire con voce d'apostolo, con voce d'angelo? Si è andato a domandare invano la verità religiosa attorno alle chiese ufficiali con tradizioni secolari. Esse è cercato con ardore e buona fede. Esse è creduto scoprirla dove si trovava il prestigio di un culto pomposo, di una maestà esteriore, di un'autorità che si imponeva, ma non vi è stato altro che vuoto, e qualche volta ribellione e nausea. Si è scoperto lo spirito di dominazione manifestarsi con violenza. Si è scoperto ben poca cura per gli interessi spirituali. Si è scoperta l'ambizione senza scrupolo per il trionfo non della causa di Cristo ma della Chiesa. Si è scoperta la simonia, il commercio delle cose sacre, l'interesse per le cose temporali, la mescolanza del sacro e del profano, la potenza temporale e politica, la connivenza spesso con la ricchezza ingiusta che induceva il clero a benedire i ricchi e a consolare i poveri dicendo loro «patirete su questa terra, ma avrete il cielo nel futuro». E allora le anime sono state esasperate e si sono gettate con violenza ai piedi di altre cattedre dalle quali discendono le grandi parole, e lo dirò più tardi, se il Signore lo permette, le grandi parole che corrispondono all'etimologia dell'Evangelo: giustizia, uguaglianza, fratellanza, pace, amore e libertà hanno raccolto le pompose affermazioni di un razionalismo senza vita e la negazione delle verità che solo sono capaci di salvare l'anima e di consolarla. Dove sono tutte queste anime disilluse? Dove sono tutte queste anime che sono state lasciate vuote perché non è stato predicato l'Evangelo, perché i cristiani non hanno avuto una vita coerente al nome che portavano? Sono là, sono sparse, sono animate o da un falso senso di trionfo e di gloria che è preludio di rovina, o sono deluse, ferite, preda di tutti incessanti, o cercano di dissipare in occupazioni volgari, distrazioni frivole o sette esperienze diaboliche, la sete di bene che tormenta l'anima dell'uomo. O sono piene di rivolta e di rancore per la società costituita e incessantemente lo Spirito di Dio ripete all'uomo le parole del Figlio di Dio: «Senza di me non potete far nulla». E il messaggio del Vangelo: «Senza di me voi non potete far nulla». E se in questo nostro spirito, in questo nostro cuore non viene ad albergare per grazia e per fede il Signore, chi vi albergherà? Che cosa sarà di voi giovani se non vi aprite al messaggio del Vangelo? Che cosa sarà di voi amici se non vi aprite al messaggio del Vangelo? Leggevo in un libro che raccomando caldamente anche a voi del dottor Schaffer che il celebre regista Beckman si studia di presentare il suo no a Dio attraverso le sue opere, ma mostra un crescente interesse per la dottrina dei demoni, per la demologia, la dottrina delle pratiche sataniche. Se non abbiamo Dio, chi avremo nel nostro cuore? Che il Signore dice nella sua parola che quando una persona cerca di migliorare se stesso attraverso autodisciplina e educazione, attraverso forse una certa relazione con qualche cosa che è nella religione, che questo suo cuore si vuota della potenza satanica, ma se questo vuoto non è riempito dal Signore, dice che più tardi la situazione di quest'anima, di questo spirito, è sette volte peggiore della situazione che aveva prima. Dobbiamo essere accertati se il Signore occupa la nostra vita, dimorate in me, e gli dice, ed io dimorerò in voi. Oh, tremendo inganno di Satana, ecco questi grandi nomi, ecco questa grande potenza delle tenebre che vengono sino a noi, ecco Schiede, ecco Sartre, che in modo infame diranno all'uomo, al giovane, alla donna, liberti di Dio, ecco Nietzsche che con il suo tormento che lo porta fino alle soglie della pazzia dirà che vi sono altri valori al di fuori di Dio. Ecco Freud che ti dirà che di valori spirituali non ce ne sono affatto. Ecco le attrazioni del sesso, satanicamente usato, le esplorazioni diaboliche di altre forme di piacere immondo, la violenza. La violenza che ama distruggere senza aver preparato i piani per una ricostruzione che non conosce e che ignora. Ecco l'illusione di farsi guadagni al di là di lavoro e di merito. Ecco il compromesso, l'illusione e l'ingiustizia. Questo è quello che ha prodotto l'uomo al di fuori del Signore, della giusta rivelazione del Signore. Mi trovavo la settimana passata a parlare a degli sposi e dicevo della bellezza del matrimonio cristiano. Gli ho detto, Forse qualche amico riderà qui in questo luogo dove siamo a sentire parlare di Dio ad un matrimonio, ma pregherei questo amico che mi porti avanti i risultati che l'uomo ha riguardo al matrimonio senza Dio. Allora faremo la solita prova sul piatto della bilancia. Portami una coppia di coniugi che ha bandito Dio nella sua vita e mostratemi la loro felicità, mostratemi Dofrasse. È la garanzia della durevolezza del loro amore, la santificazione delle loro relazioni, la bontà di tutto quello che riguarda questa comunicazione di vita con un essere che amiamo di un altro sesso, se cui veramente la casa può essere un paradiso, sempre avanti la società e mi mostri il suo prodotto ed io gli potrò mostrare qual è il prodotto della presenza di Dio in un cuore. Questa è la droga, l'Evangelo, potenza di Dio che è capace di salvare ogni anima che crede. In questa prima parte ho cercato di stabilire 1. Che la religione che non ha la sua base nel Vangelo, pur se si chiama cristiana, è la nemica dell'anima umana. 2. Che le filosofie atee, pur se sono raffinate, geniali e intelligenti, sono il prodotto dell'inferno e che è necessario tornare al Vangelo senza vergognarsi di esso, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di ogni uomo che crede. Vogliamo leggere, fratelli e sorelle, nel Signore, nel capitolo 18 dell'Evangelo secondo Gio, versetto dal verso. Nen, 28. Poi da Caiafa menarono Gesù nel pretorio. Era mattina, ed essi non entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Pilato, dunque, uscì fuori verso di loro e domandò: «Quale accusa portate contro quest'uomo?» Essi risposero e gli dissero: «Se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo dato nelle mani». Pilato quindi disse loro: «Pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire alcuno». E ciò affinché si adempisse la parola che Gesù aveva detta, significando di qual morte doveva morire. Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei giudei?» Gesù gli rispose: «Dici tu questo di tuo? Oppure altri te l'hanno detto di me?» Pilato gli rispose: «Sono io forse giudeo? La tua nazione e i capi sacerdoti ti hanno messo nelle mie mani. Che hai fatto?» Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato in mano dei giudei. Ma ora il mio regno non è di qui». Allora Pilato gli disse: «Ma dunque sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo dici, io sono re, io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque è per la verità, ascolta la mia voce». Prendo questa espressione «io sono re» nel suo significato generico e non dispensazionale. Quando Pilato ha domandato al Signor Gesù Cristo: «Sei tu re?», il Signore ha risposto: «Io lo sono». Abbiamo un inno che dice: «Lascia entrare il Re di Gloria, apri il cuore al buon Gesù, io lo sono». Leggevo il bellissimo libro, che purtroppo è solo in francese, una serie di sermoni di un uomo di cui Dio si è servito splendidamente, Eugenio Bercier. Leggevo un episodio che egli riporta per averlo letto in un libro scritto da un ufficiale spagnolo che aveva combattuto contro Gaspare de Coligny. Si racconta che, 4 secoli or sono, il grande eroe della riforma francese Gaspare de Xic difendeva dall'invasione degli spagnoli la piccola città di Sé. Filippo II si sarebbe diretto su Parigi se questo pugno di eroi, di valorosi, non l'avessero arrestato nella sua marcia. La piccola città di S. Quintino non aveva che una situazione di rovina. Assediata da molto tempo, la febbre e la fame decimavano i suoi difensori. La popolazione affranta parlava di arrendersi e il tradimento scivolava dappertutto nell'ombra. Un giorno i nemici gettarono al di sopra delle mura della città delle frecce che portavano delle bandierine sulle quali era un'iscrizione che prometteva agli abitanti che volevano arrendersi la vita santa e il risparmio dei loro beni. Per tutta risposta, racconta questo ufficiale spagnolo, Gaspare de C., prese un pezzo di pergamena e vi scrisse queste semplici parole: «Regem abemuser». Poi affissò ad un giavellotto che lanciò nel campo nemico: «Regem a, noi abbiamo un re». Era per lui l'espressione eroica della fede nella sua patria, che la sua anima leale vedeva incarnata nel re. Pur se questo re era Enrico II, sposo di una Medici che doveva diventare il padre di Carlo IX, il quale avrebbe poi assassinato il grande capitano ugonotto. Ma sono belle queste parole. Noi abbiamo un re. La città è assediata, Bittelt Crisse, la febbre, la fame, il tradimento. E allora il nemico fa sorpassare le mura della città da un messaggio che promette vita santa e beni santi, se si è disposti alla resa. Qual è la risposta dell'eroe che fa volare sul campo nemico? Noi abbiamo un re. Fratelli, sorelle, amici e amiche nel Signore, la fede evangelica è un po' come un agglomerato di anime che vivono in una specie di cittadella assediata da mille forze nemiche. Ne abbiamo di ogni genere attorno a noi, le potremo rielencare come prima le abbiamo elencate. E il mondo è contro Gesù. Gesù ha detto: sarete odiati per cagione mia. L'Evangelo ha tanti nemici, ma fra tanti rumori, fra tante forme di dissoluzione, di compromesso, di male, di nuovi pretesi ideali che vogliono sostituirsi alla fede pura del Vangelo, noi abbiamo questa fede nel Signore, questa fede nella Sua parola, e vogliamo dire in ogni momento e in ogni ora, per la potenza dello Spirito Santo, noi abbiamo un Re. Il nostro Re è il Signore, il nostro Sovrano Divino, colui che ora è il Re del nostro cuore, il Re della nostra vita, e che un giorno regnerà veramente in questo universo rinnovato. A Lui vogliamo dire del continuo, avendo come una specie di anticipo dell'inno che si legge nell'Apocalisse. A Lui sia la gloria, l'onore, l'imperio, la ricchezza, la potenza, l'adorazione nei secoli dei secoli. Chi sei tu? Sono un cristiano evangelico. Io ho un mio re. Continuamente le forze avverse vorremmo indurci alla resa. Noi credenti evangelici dobbiamo saper dire agli uomini che la sorgente del bene per l'uomo è non solo in Dio, ma è venuta sempre da Dio. Ora voglio spiegarmi, leggo prima due brani della Scrittura. Quando l'Apostolo Paolo si trovò a predicare in Listra, disse: Dio ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Non ci ha lasciato senza testimonianza, facendo del bene, mandando dal cielo piogge, stagioni fruttifere, dando cibo in abbondanza e letizia nei cuori. E nell'Areopago di Atene disse ancora: Dio ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini delle loro abitazioni. I principi della giustizia sociale e della pace familiare vengono dall'Evangelo. Le stesse leggi con le quali gli uomini ma amministrano sopra la terra la giustizia hanno la loro base nel Decalogo, che è appunto la sorgente delle leggi giuste che governano i popoli. E è stata una grande benedizione per il mondo che vi siano state quelle che si possono chiamare le benedizioni periferiche, che sono scaturite dal Vangelo. È stata una benedizione l'avere liberato l'uomo povero dalla crudeltà e dallo sfruttamento dei ricchi malvagi, che il clero spesso ha benedetti. È stata una liberazione l'aver dato libertà alla donna e l'averlo ridato la dignità di creatura di Dio, quale essa è, sicché l'Evangelo dice che davanti al Signore per la salvezza, che è in Cristo, non quanto è né giudeo, né greco, né scita, né barbaro, né maschio e né femmina. La donna è equiparata all'uomo, ha tutta la sua dignità, pur se il Signore la inviti per la sua conformazione, per la sua natura, ad avere una sana e santa soggezione rispetto all'uomo. È stata una benedizione l'avere liberato i bambini dei poveri dall'abbandono e dallo sfruttamento. È stata una benedizione l'avere permesso l'accesso di tutti, il più possibile almeno, andiamo verso questa giustizia di tutti alla cultura. L'aver dato asilo, ristoro, pensione alle persone che sono vecchie. L'aver abolito la schiavitù, l'aver mitigato le ingiustizie. Tutto questo è stata una grande benedizione che è venuta all'uomo, ma di dove l'uomo ha tratto i principi di questo bene che ha applicato alla società e da se stesso? Di dove li ha tratti? Dove sono i germi di questa benedizione? Dove sono i suoi principi? I suoi principi sono nell'Evangelo. I principi dei beni di cui possiamo godere nella società, del progresso che l'uomo oggi ha e di cui gode si trovano nell'Evangelo. Ma che cosa abbiamo fatto noi uomini? A mano che progredivamo in questa via che è indubbiamente una via sotto tanti aspetti di progresso, a mano che i nostri passi andavano avanti verso migliori e di maggiore giustizia, noi eindavamo il Signore e mettevamo i nostri nomi a quelle benedizioni che avevamo conosciuto dal Vangelo. Questa, miei cari, è la bestemmia e l'eresia che ci attorna oggi. Leggevo in una monografia su Panorama, mi scuserete se faccio il nome di un uomo politico, non faccio nessuna difficoltà a fare questo, è un uomo che ha un grande nome nel mondo, perché credo che un credente deve avere coscienza di quello che lo circonda. Guardarsi attorno ed esaminare tutte le cose alla luce di Dio e non per fare della politica, ma per guardare che cosa sono capaci di fare gli uomini. Leggevo una monografia su MT, diceva Urban, uno studioso inglese. Il machismo è un serio appello ad un comportamento sociale moralmente responsabile, che ha molti aspetti in comune con la regola del cristianesimo, soprattutto nella veste che il cristianesimo ha assunto in epoca protestante o vittoriana. Cioè, quando il cristianesimo ebbe veramente un risveglio ed una addirittura quello che si chiama anche puritanismo. Esso predica virtù eminentemente sociale come la temperanza, la frugalità, l'umiltà, lo spirito di sacrificio, l'amore per il lavoro. E per questo ispira simpatia. Ma in tutti questi bei principi, in tutte queste belle cose, quale posto ha il Signore? Regimi atei che hanno bandito il Signore e questi principi che scimmiottano dall'Evangelo li hanno attribuiti a loro stessi. E allora, come si sapeva, ai tempi di Hitler là si elevano degli inni a quest'uomo ed io sono certissimo, informalmente certo, fa star bene i cinesi infinitamente meglio di quanto stavano al tempo di prima, ma non per questo ciò doveva voler dire che egli è il padre di questo benessere, perché tutto ciò che è buono, tutto ciò che è giusto, tutto ciò che è saggio, tutto ciò che è saggio, tutto ciò che è puro, viene soltanto dal Signore. Ecco la trappola della situazione nella quale ci troviamo. Queste benedizioni sociali scaturite dal Vangelo sono state godute dall'uomo che le ha svincolate da Dio, che è l'origine e sono il suo intoppo. Voi troverete mille persone che, proprio perché il clericalismo non ha portato la predicazione del Vangelo, hanno sentito parlare di giustizia, di libertà e uguaglianza da chi non poteva parlare perché Dio aveva parlato di questo, perché Gesù parla di questo, e quando l'Evangelo è stato chiuso si è fatto sì che la società non potesse sentire questi principi divini, non li usasse, non li instaurasse nelle sue file, e adesso per altre strade questi principi tornano verso l'uomo, e l'uomo si abbevera, l'uomo esalta l'uomo, siamo davanti alla divinizzazione dell'uomo, e per questa ragione, avendo l'uomo tolto la paternità dei beni a Dio, avendoli chiamati con nomi di padri umani, mentre la paternità è del Signore. Un giudizio grave sul mondo perché il bene è divenuto male. O miei cari fratelli e sorelle di Spinetta, d'Italia e del Nord, non aspettiamoci che questa società corrotta possa andare avanti verso Eldorado che sempre più brillerà loro. Ricordiamoci, noi siamo sotto il principio del giudizio di Dio. Il giudizio di Dio è sopra questa società decadente, corrotta, blasfema ed atea. L'uomo è il Dio dell'uomo. La politica è diventata mistica. I fenomeni di certi momenti e di certi movimenti sono il chiaro segno della religione dell'uomo. Si chiamano movimenti politico-religiosi. Questo noi dobbiamo denunciarlo. E quando gli uomini vengono e ci dicono della bellezza di queste istituzioni, di questi popoli, rallegriamoci. Io mi rallegro profondamente a pensare che ci sono migliaia di uomini che oggi stanno meglio, grazie a Dio per la creatura che ha preso coscienza di sé, che è stata liberata da schiavitù immorali che per secoli l'aveva distrutta. Ma piango quando penso che accanto a questo benessere materiale non vinto è la conoscenza dei principi spirituali. Questo è ragione di dolore e noi cristiani dovremmo piangere per questo. Noi dovremmo essere addolorati al pensiero di anime che stanno meglio nel corpo ma non conoscono il bene immenso dell'anima e dello spirito. Si dice: non abbiamo bisogno di Dio, Abbiamo la nostra divinità, che è lo Stato, la nostra società, le nostre assicurazioni, la nostra ricchezza, la nostra potenza, il nostro benessere, se necessario la violenza, ecco, la forza. Invece il credente fa che tutte le garanzie e i benefici di cui vogliamo oggi vengono da Dio, nell'applicazione dei principi della giustizia del Vangelo. Il Signore parla di questo, invece di glorificare Dio. Si sono dati a vani ragionamenti, lo hanno abbandonato, hanno glorificato l'uomo, allontanandosi da Dio. Hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore. Ecco la grande e terribile colpa in cui si dibatte il mondo, la società di oggi. Tutto viene dall'uomo, così si dice. L'infanzia abbiamo fatto straordinari progressi nella medicina, nella psicologia, nella pediatria. Tremendi progressi, l'adolescenza gode di libertà sconosciute, abbiamo l'aiuto dell'intelligenza superiore, dell'evoluzione della donna, della psicologia del progresso, del benessere. Abbiamo un'enormità di garanzie perché il matrimonio possa andare bene, se poi andasse male via il divorzio. E si può accomodare anche questa eventualità. E per la vecchiaia? Ci sarà il vecchio che domanderà a Dio l'aiuto. Ormai abbiamo la pensione e gli studi di gerontologia, viria e chierri, e tutto, tutto per poter dire al Signore: esci fuori dalla porta. Abbiamo adorato la creatura, e questo è il giudizio che pesa sopra questa società del malessere. Questa società che ha tanto senso di sgomento, di paura, ha tanti interrogativi che tremano sul suo cuore, e così questo giudizio grava. Quando io penso a volte a tutto questo progresso che vi è nel mondo, mi dico, quando penso a quello che mi diceva il mio caro padre, ho avuto un padre che non ho potuto godere abbastanza nella mia vita, e di cui mi ricordo ora certi aspetti del suo sacrificio, del suo amore per me. Quando io penso alla sua vita, rispetto già alla mia, che è stata infinitamente migliore, vedo questo progresso e dico: che cosa dovrebbe essere il mondo ora che noi, tutti uomini, abbiamo avuto tanto miglioramento, anche se non fur, è una perfetta giustizia, una perfetta giustizia. Non vi sarà perché la porterà solo il Signore? Non dovrebbe essere questo mondo una specie di tempio da cui si innalza un inno di lode al Signore per tutto quello che noi uomini abbiamo avuto, in grande miglioramento in tutti gli aspetti della nostra vita? Invece questo mondo è un tempio di Satana, da dove si innalzano le voci più gravi, le voci più tristi, più dissonanti, più bestemmiatrici, come si levavano da Sodoma e Gomorra. Noi dare al Signore tutta la signoria, noi dobbiamo insegnare agli uomini che il Signore deve avere il primo posto. Quando i credenti della Chiesa primitiva, parlando di Gesù, dicevano: in niuno altro vi è la salvezza, poiché non vi è alcun altro nome sotto al cielo che sia dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, volevano dire che riconoscevano solo Gesù come colui che salva pienamente l'uomo, e noi dobbiamo ridirlo ancora. Ma siamo portati, miei cari, in questo mondo a fare dei tabernacoli. Mi pare un po' che a volte vi sia l'idea che ebbe l'Apostolo Pietro quando si trovò nel Monte della Trasfigurazione, di cui ci parlava stamani il nostro caro fratello Giuli. Ad un certo momento sono venuti Mosè ed Elia, il Signore Gesù era in mezzo in questa luce. E allora Pietro è stato rapito in estasi e ha detto una delle sue eresie delle quali l'Evangelo è costellato: Signore, facciamo tre tabernacoli, uno a te, uno a Mosè, uno a Elia. E la scrittura dice che non sapevo quello che dicesse. Perché? Perché il Signore Gesù non può dividere la sua gloria con altri, perché Mosè ed Elia sono grandi, ma Gesù è il figliolo di Dio, e dice che ad un certo momento una voce si è fatta dal cielo, era la voce di Dio, e questa voce di Dio ha detto: questo è il mio diletto figliolo in cui ho preso il mio compiacimento, ascoltatelo. E Gesù era tutto solo là, non va. E alcun altro nome che sia dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati, possiamo essere salvati. Chi salverà l'uomo? Chi potrà salvare la creatura umana? E la salverà soltanto questo ritorno all'Evangelo. Non si devono fare dei tabernacoli accanto ai quali non possiamo mettere il Signore insieme ad altri uomini. Il Signore Gesù Cristo non rappresenta un ideale di sociologia o di umanesimo accanto agli altri, egli è tutto a sé, non è un gradino più alto degli altri, è assolutamente diverso, è il pensiero di Dio, è la rivelazione di Dio, a questo punto è stato girato in nastro e quindi mancherà qualche parola. Il tabernacolo di Mao è il tabernacolo di Cristo, se voi volete. Che sbaglio! Noi vediamo tutti questi idoli che sono fra gli uomini e vediamo quante persone strizzano l'occhio, fanno l'occhio di triglia a queste forme. Ma il cristianesimo deve essere qualche cosa che prende l'anima, non dobbiamo amoreggiare con sistemi filosofici atei o con sistemi religiosi che non hanno la base nella rivelazione della parola di Dio divinamente ispirata, compresa alla luce delle scritture. Noi credenti dobbiamo dire questo. Non ci è altra risposta per l'uomo davanti a tutti i suoi problemi e ai suoi interrogativi. La risposta è tornare al Signore. E noi dobbiamo dirlo. Solo gli evangelici, solo i cristiani, solo coloro che fondano la loro fede sulla rivelazione proposizionale di Dio che devono dire questo. Sia nei riguardi del singolo, della famiglia, dei rapporti sociali, dei giovani, noi abbiamo una prospettiva. E questa prospettiva è la parola di Dio, la rivelazione di Gesù Cristo. Essere cristiani significa affermare sì certe dottrine, ma avere altresì una mentalità che è armonizzata con il Signore. Leggevo queste parole dell'Apostolo Paolo che si riferiscono proprio all'uomo e alla donna. Egli diceva ad un giovane, ad un eletto giovane che ha curato con tanto amore e grazia a Dio per tutti gli uomini che sono più giovani, che hanno cura dei giovani per parlare loro del Signore. Nessuno sprezzi la tua giovinezza, sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Non trascurare il dono che è in te, il quale ti fu dato per profezia quando ti furono imposte le mani dal collegio degli anziani. Cura queste cose donati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. E per voi giovani queste, bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose. Perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Salverai da che cosa? Non ho pensato che si tratti della salvezza dell'anima, della salvezza eterna, ma salverai la tua vita dalla corruzione, dall'impudicizia, dalla potenza del male, che solo là torna a te per aggredirti. Salverai te stesso e coloro che sono vicini a te. E che cosa dice l'apostolo della donna? Le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia e modestia. Non si è più belle quando si va in minigonna, non si è più belle, si è più belle quando abbiamo la bellezza dello Spirito di Dio nel nostro cuore e quando ci vestiamo naturalmente in modo adeguato ai tempi, ma portando qualche cosa che ci distingua da coloro che non hanno il Signore, quando mi pare che sia l'insegnamento che deve essere dato. Le donne si adornino d'abito convenevole, con verecondia modestia, non di trecce d'oro, di perle, di vesti sontuose, ma d'opere buone come s'addice a donne che fanno professione di devozione. La donna impari con silenzio e poi dice ancora la donna sarà salvata se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia, partorendo figli. Non sono le donne maritate che fanno figlioli che sono salvate, non vuol dire questo, queste parole vogliono dire la donna sarà salvata da tutto quello che è corruzione che la sta colpendo, che la sta svuotando, che la sta degradando, se riprenderà la sua posizione nella società e nella famiglia, la sua posizione di donna cristiana, se non avrà quelli che si chiamano gli amplessi prematrimoniali, ma se andrà pura con il suo sposo che Dio le darà a suo tempo e con esso avrà il frutto dei figli, il frutto di amore santo. Questo dice la parola, si salverà dalla corruzione del secolo, dalla corruzione. Noi dobbiamo credere a queste verità, miei cari, noi dobbiamo riprendere. Qualche cosa che voglio dire ancora prima di concludere è questo. Stiamo attenti a tutte le cattedre dalle quali vengono verso di noi le grandi e impegnative parole. Giustizia, fratellanza, eguaglianza, pace, amore e libertà. Non ascoltiamo l'interpretazione di queste parole nei dizionari dei sistemi politici, nella spiegazione che danno i dizionari dei sistemi politici, della filosofia, della politica, delle forme religiose esteriori, della sapienza umana, i significati di giustizia, fratellanza, eguaglianza, di pace, di amore e libertà, non si trova in dizionario, è nella parola di Dio e quando noi riprenderemo la parola di Dio sapremo che cosa voglia dire pace, che cosa voglia dire fratellanza, eguaglianza, che cosa voglia dire amore. E In nome dell'amore che in una spiaggia un'orda di hippie hanno svuotato delle ragazze del loro onore e delle loro speranze. Le hanno possedute in debosce che non si possono ripetere. Eppure si parlava di amore. E si parlava di amore. E si parlava di fiori e si parlava di pace. E voi non potete ascoltare da questi vocabolari l'etimologia di queste parole, perché l'etimologia della parola amore viene da Dio. Dio è amore ed è soltanto leggendo la scrittura che noi sapremo che cosa è nell'amore, ed è soltanto aprendosi al Signore che lo Spirito Santo spanderà nei nostri cuori l'amore. Allora potremo parlare di amore, allora potremo sapere qualche cosa di amore, ma finché noi andremo in questo mondo ascolteremo queste cattedre e assisteremo a questi spettacoli che degradano la creatura umana, no, dovremmo dire a queste persone: la vostra parola è un altro amore, l'amore di cui mi parla il mio Signore è l'amore di Dio. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo. In questo è l'amore, non solo che il Dio ci abbia amati, ma che abbia dato il suo figliolo per la nostra salvezza. Il significato di queste parole si trova nella Bibbia. E si trova dove ancora? Dove deve trovarsi, miei cari? Nella vita dei credenti. Sono i credenti che devono incarnare questi grandi principi. Giustizia, libertà, fratellanza, pace e amore. Siamo noi che dobbiamo portarli attorno. Oh, quando pensiamo che dovremmo essere noi coloro che stabiliscono la circolazione dei beni spirituali del mondo, che senso di responsabilità. Non sono i conventi, ma sono i credenti che stabiliscono la calamitazione della grazia nel mondo. Come l'acqua in alta montagna si divide, va giù e scende sui declivi di questa montagna per poter abbeverare i terreni sterili. Non sono i conventi, sono i credenti. Voi costituite una forza, noi costituiamo una forza spirituale di cui ha bisogno il mondo. Noi abbiamo bisogno di ritornare alla parola di Dio, abbiamo bisogno di ritornare alla preghiera, abbiamo bisogno di ritornare all'amore fraterno senza finzione, abbiamo bisogno di riguardarci negli occhi senza aver paura. Abbiamo bisogno di poterci rivedere dopo 2 anni senza arrossire perché ci siamo scritti una cattiva lettera. Abbiamo bisogno di avere la compassione. Abbiamo bisogno di avere la potenza del perdono. Allora noi saremo questa forza, lo dicevo poco prima e lo ripeto ancora. Ecco questa radunanza che si mette a pregare. Che potenza sarebbe, miei cari, se stasera noi non tornassimo superficialmente da questa riunione, ma tornassimo compresi delle nostre responsabilità e la nostra casa ci trovasse come uomini, donne, sposi e spose rinnovate, che impiegano del tempo nella preghiera, nella meditazione della parola, nel servizio cristiano. Che grande potenza che scaturirebbe da una piccola riunione evangelica che si trova in un piccolo paese o da alcune riunioni che si trovano in un... Non sono i conventi che stabiliscono la della grazia, sono i credenti. Quale responsabilità? Bernanos affermava, se ne avessimo un'idea chiara, non potremmo vivere, è vero, non avremmo pace, se ne avessimo un'idea chiara che noi possiamo beneficiare altri, con una vita che è dedicata al Signore, non avremmo pace, tutta la nostra vita sarebbe continuamente una vita che ricerca la faccia del Signore in questo polverone che noi facciamo camminando sopra questa terra. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, come cristiani e cristiani evangelici, che se noi non camminiamo alla luce della parola di Dio, inganneremo noi stessi. Ma state ben attenti, non inganneremo né il Signore né il nostro prossimo, perché gli uomini ci vedono. Il mondo ha occhi penetranti per discernere i segreti disordini e le inconseguenze di una vita che si mostra come cristiana. E non lo è. Ikotoa, il mondo che disdegna il Vangelo attende molto dal Vangelo. Sì, fratelli e sorelle, il mondo disdegna il Vangelo, attende dal Vangelo. Il cristianesimo è giudicato con estremo rigore. Il mondo non si fa impressionare da pii discorsi e da belle apparenze, e se egli non scorge che le opere sono corrispondenti alle parole, chiamerà la nostra religione come è stata chiamata oppio e dirà che è un cembalo che risuona. Ma se saremo fedeli alla nostra professione di fede, il mondo non è che ci amerà, non ha amato Gesù, non può amare noi, ma nel fondo di sé ci renderà suo malgrado giustizia. Le sue labbra cercheranno di condannarci, ma la sua coscienza ci approverà. Può essere che arrivi a maledirci e gli diamo fastidio, ma sentirà la nostra forza e subirà la nostra influenza. mariti, mogli, figli, padri, madri, datori di lavoro, prestatori d'opera, vedove, nubili, celibi, malati, sani, poveri, agiati, giovani, ragazzi, i cristiani sono lasciati dal Signore nel mondo per essere il sale della terra e la luce del mondo. E là dove si mette un cristiano che vive nella comunicazione con il suo Signore, vi è una forza che arresta l'avanzare del male. Là dove vi è un cristiano che vive nella comunione con il suo Signore, vi è una luce che può rischiarare le anime. Così, miei cari, onorare il Signore nella carità divina, beneficare le anime, questa è l'apologia del cristianesimo, questo è portare onore al Vangelo, questo è di non vergognarsi di questo meraviglioso messaggio ed ho vinto. Faccio appello in questo momento ad un'anima presente che volesse in questa sera rompere con una vita che sin qui non ha messo il Signore al primo posto. Faccio appello a quest'anima perché questa sera si arrenda al Signore e davanti a tutte le aggressioni che giungono fino a lei da se stessa e dal mondo possa dire: io ho trovato il mio Re. E non si arrenda al mondo, ma si arrenda al Signore. Faccio appello ad un'anima che possa aver vissuto addormentata per un periodo di tempo e che adesso, stasera, in questo luogo dove è abitato lo Spirito Santo stamani, possa sentire che il Signore la chiama. Faccio appello a quest'anima, faccio appello ad un giovane, faccio appello ad una ragazza, perché in questo momento possano rompere una forma di schiavitù o di indifferenza alle cose del Signore e vengano avanti con le forze meravigliose per la vita che è quella rivelata nella parola di Dio. Questa mattina ho trovato una cara sorella che, come non è più giovane, e questa cara sorella mi diceva: ho udito nella città dove abito l'Evangelo da tanti anni, sono stata ferma per tanto tempo, ed ecco, ora che sono più giovane ho aperto il mio cuore al Signore. Domenica prossima io darò la mia testimonianza per il battesimo di immersione. Che benedizione! Ci è qualcuno che è stato lontano dal Signore e che lo è stato sino adesso, che in questo momento vede questo Signore che si avvicina a lui, che lo chiama, che gli dice di passare attraverso questa porta stretta, chinando la cervice dell'orgoglio sotto la forca caudina della grazia di Dio che chiama a ravvedimento. Chi è quest'anima? Che quest'anima si levi, che quest'anima venga avanti, che noi possiamo festeggiare perché ancora una predicazione del Vangelo ha prodotto il suo meraviglioso effetto. Sia benedetto il Signore per tutti. Coloro che sotto questa tenda possano dire oggi: io non mi vergogno dell'Evangelo perché è la potenza di Dio in salvezza per ognuno che crede. Sia benedetto il Signore per ogni anima che oggi veramente si arrende al Signore Gesù e lo chiama Salvatore, Signore, Maestro e Guida. Amen. Artini Giannunzio.